Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetto Sinistra, il mondo dentro il balloon, che oggi torna su uno dei caposaldi della costruzione del Movimento Operaio in Italia, ovvero sia le case del popolo, che ha avuto una funzione ricreativa, sociale, educativa, insomma tutto un mondo che in particolare negli anni 50 ha costituito davvero una colonna vertebrale delle classi sociali meno abbienti. E lo facciamo con questa relazione di Marco Fincardi, registrata il 6 febbraio di quest'anno presso la sede dell'Associazione 2000. Dopo lo stacchetto musicale, la parola allo storico Marco Fincardi, docente dell'Università di Bologna. Casa del Popolo, un luogo multifunzionale. I vari livelli di associazione collaboravano tra di loro e riuscivano a fornire dei servizi alla comunità. Il progetto fatto sui bambini, quello di dire cominciamo a elaborare una pedagogia per i bambini, ma per i bambini figli dei lavoratori, quelli che a scuola sì e no ci vanno e che se ci vanno, arrivati alla quinta elementare, poi smettono. Anche in epoche dove già c'era l'obbligo della terza media. C'è questo progetto, si mettono insieme come educatori improvvisati, qualcuno magari era uno studente, ma tanti non erano nemmeno quello, erano anche loro dei giovani operai che avevano la quinta elementare, ma che potevano avere delle cose da insegnare, potevano mettere dei bambini, dei ragazzini a mettere insieme a giocare. E allora si fa questo progetto dove i ragazzi della FIGC e le donne dell'UDI si prestano come giovani maestri e maestre per far giocare e per far imparare delle cose ai bambini. Sul giornalino arrivano fuori tutte delle proposte di giochi, di fare teatro, di come fare il cinema, di come fare iniziative culturali, di come fare i campeggi. Ci sono tutte queste proposte di crescita che mettono insieme questo associazionismo che si trova nelle case del popolo. Io ho voluto prendere proprio questo libro, Storie di case del popolo dell'Emilia Romagna, è ormai un reperto archeologico di 40 anni fa, che avevano fatto Luigi Arbizzani, Saveria Bologna e Lidia Testoni dell'Arciwisp, dove si raccontano proprio le storie delle case del popolo come luoghi appunto multifunzionali, dove si incontrano collaborando tra di loro le diverse forme di solidarietà che possono esserci nell'associazionismo di classe della sinistra e ne esce un rapporto virtuoso che rende questi luoghi di incontro luoghi di scambio tra la socialità e la solidarietà e fanno in modo che da lì vengano delle iniziative che sono in grado di mettere a contatto quello che può essere l'edificio della Casa del Popolo con tutta la comunità che ci gira intorno. Intorno e che vede in quel luogo il proprio riferimento, il proprio luogo dove ritrovarsi, in cui identificarsi, in cui avere una vita culturale e anche una produzione di servizi che renda competitivi anche proprio nei rapporti sociali, nelle relazioni di tutti i giorni, la gente del popolo rispetto ai signori, rispetto ai ceti medi che andavano a trovarli da altre parti, i loro servizi con cui primeggiavano nella società. Per i lavoratori quello diventa un progetto che porta a puntare sui bambini, sui ragazzi, per farli crescere, per fare in modo che non continuino a essere dei marginali come lo erano stati i loro genitori, i loro nonni, i loro bisnonni, perché la storia di quei ragazzi cambi rispetto al passato, perché ci sia una produzione di cultura per loro che li renda poi quelli che li vedremo, è una storia questa degli anni 50, negli anni 60, negli anni 70 li vedremo essere qualcosa di diverso, quelli che fanno crescere il movimento cooperativo, il movimento sindacale, quelli che faranno crescere i servizi dello Stato sociale, con la riforma sanitaria, con tutti i servizi a domicilio, con la crescita della scuola, con la riforma della scuola media del 1962. In questo libro c'è Giorgio Triani che ripete, testimonia le cose che vi ho appena spiegato. Lui sostiene che lo scioglimento ufficiale dell'Associazione Pionieri, avvenuto nel 1960, ha creato dei problemi concreti alle case del popolo, proprio perché metteva un blocco a questa frequentazione dei bambini, a questo attivismo dei bambini, che era un momento di animazione importante dentro le case del popolo. E quindi ha creato un vuoto che poi nel 68 si è sentito quando c'è stato un passaggio generazionale che mancava sostanzialmente, quando c'erano i giovani che contestavano fuori, ma contestavano anche dentro alle case del popolo, perché non si ritrovavano magari nei balli o nella musica che ci si faceva nelle case del popolo. La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai? Ma che colpa abbiamo noi? Se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi. Ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Triani spiega questa cosa, dice: nato come movimento di massa, quello dei pionieri, estremamente spontaneo e eterogeneo, l'Associazione Pionieri d'Italia metteva a disposizione dei ragazzi e degli educatori due fondamentali strumenti di divulgazione e di formazione: il Pioniere, diretto da Gianni Rodari e da Dina Rinaldi, e la Repubblica dei Ragazzi, la rivista su cui si formavano questi giovani educatori improvvisati. Numerose furono le attività educative e culturali che nel corso degli anni vennero sviluppandosi, che trovarono collegamenti e ospitalità nelle case del popolo. Dice Triani che proprio l'avere bloccato l'esistenza dell'Associazione Pionieri, che non dappertutto ben inteso c'è stata, non conosco la realtà di Bologna, nella provincia di Reggio Emilia, di Modena, di Ravenna, o anche a Milano, a Torino, dove l'associazione era forte, ha continuato a esistere fino a tutti gli anni 70. Abbiamo delle carte dove ancora a Torino sono i reparti dell'API ancora nel 1981. In pratica è venuta a mancare una rete nazionale dell'API, è venuto a mancare lo stimolo ad alimentarlo anche dal punto di vista di novità culturali. Quindi in tante località, in modo residuale, questo modo di stare insieme, che era stato inventato da questi ragazzi e dalle donne dell'UDI dalla fine degli anni 40, dal 49-50, il 50 era iniziata ufficialmente, ha continuato l'Associazione Pionieri a funzionare come un momento di crescita, di educazione per questi ragazzi, ma anche appunto è stato all'interno di tutto il quadro associativo della sinistra un momento proprio di progetto del futuro, anche nella costruzione delle colonie, un altro servizio sociale che negli anni del dopoguerra funzionava a livello informale proprio, in pratica funzionava con il finanziamento della Lega delle Cooperative e poi c'erano come assistenti le donne dell'UDI, sempre i ragazzi della FIGC, poi quando è nata l'API appunto con questi ragazzi che formavano proprio e che hanno creato anche una generazione di nuovi pedagogisti, pensiamo a tanti che poi hanno fondato il movimento di cooperazione educativa, anche l'assessore Bruno Ciari che c'è stato qui a Bologna, era gente che si era formata dentro l'associazione Pionieri. C'è stato il costruire attraverso il contributo di tutte le varie associazioni, per esempio se prendiamo le colonie appunto le finanziava la Lega delle Cooperative o anche l'esperienza dei campeggi, la stessa cosa. C'erano le giovani dell'UDI e i giovani della FIGC a fare da monitori, da educatori e poi arrivavano gli istruttori dell'UISP a organizzare le gare sportive, a insegnare gli esercizi, a fare queste cose. Quando è nata l'ARCI nel 1957, l'ARCI in parte ha ripreso tante di quelle attività che c'erano all'interno dell'associazione Pionieri, oppure per altri versi anche ha continuato, perché dopo i reparti di cui parlavo sopravvissuti, dopo lo scioglimento nel 1960 dell'associazione Pionieri, hanno continuato a esistere e sono diventati poi l'ARCI Ragazzi, con Carlo Pagliarini, il presidente dell'associazione Pionieri, che è diventato presidente dell'ARCI Ragazzi. Quindi sono esperienze che non si sono perse. Probabilmente quello che si è perso è stato quella progettualità di tutti i vari livelli dell'associazionismo di sinistra che animava le case del popolo e che si è un po' andato sciogliendo. Alla fine è rimasto essenzialmente l'aspetto ricreativo nelle case del popolo, mentre l'elaborazione dei livelli operativi di solidarietà, di progettualità, proprio per trasformare la società che prima partivano proprio dal luogo delle case del popolo e che facevano gravitare attorno a un nucleo di interessi i vari livelli delle associazioni, quello si è andato lentamente perdendo. Se oggi guardiamo nelle case del popolo, oggi non sono più la sede del sindacato, non sono più la sede appunto dell'UDI o di altre associazioni, o lo sono raramente. Allora tutte le forme associative popolari gravitavano attorno alla casa del popolo. Quello dava una particolare forza e un particolare spirito dinamico a quel tipo di associazione. È il ricordare proprio come fossero organizzati questi diversi livelli della solidarietà, come si stimolassero reciprocamente, quello che probabilmente dovremmo riscoprire anche nella società di oggi. Through the workers' blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever. Forever, for the union makes us strong. taken untold millions that they never toiled to earn. But without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever. In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Parliamo ora di un fumetto per bambini, perché stanno tornando fortemente anche le stesse graphic novel per le giovani età. Oggi parliamo di Gaetano e Zolletto, un lavoro fatto dall'autrice Silvia Zecchini e le illustrazioni di Sualzo. La storia di un padre e un figlio in versione asinina, ma per sapere di più, con Simona di Yucali, intervistiamo proprio Silvia Zecchini. Sualzo e Silvia Vecchini, Gaetano e Zolletta. È un fumetto, Gaetano e Zolletta, anzi una serie di fumetti che raccontano storie di un padre e di un figlio, anche se in forma asinina. Avventure a fumetti con contenuti in più per giocare e inventare altre storie. Quindi si possono ritagliare, costruire delle marionette, dei giocattoli per fare altri e altri giochi e continuare a inventare storie. Ascoltiamo. E cosa racconta Gaetano e Zolletta e i suoi personaggi, la serie di questo fumetto? Eh sì, innanzitutto è un fumetto per come proprio prima lettura, forse anche prelettura, perché pensiamo che sia importante far conoscere i fumetti ai bambini anche che ancora non leggono e quindi accompagnarli. È un testo che è scritto in stampato maiuscolo, naturalmente essendo un fumetto ha tante immagini, ci sono delle avventure dei nostri personaggi e pensiamo che possa essere proprio anche un modo per iniziare l'avventura della lettura. Quindi o con un mediatore, che è un genitore, la mamma, il papà, lo zio, il fratello più grande, oppure da soli, ecco, affacciandosi proprio all'esperienza di lettura. La storia poi è una storia di un papà e di un bambino, anche se sono due asini, Gaetano è il papà, Zolletta è il suo bambino, che passano semplicemente del tempo insieme. In ogni libro di Gaetano e Zolletta ci sono due storie, iniziamo subito presentando i personaggi che passano una giornata insieme e poi c'è il compleanno di Zolletta, c'è il primo giorno di scuola, c'è una giornata sulla neve, insomma piccole cose quotidiane che però vanno a rendere più forte la relazione papà-figlio anche attraverso delle avventure un po' comiche. In radio le illustrazioni non si vedono, raccontaci i tuoi disegni, i tuoi personaggi, il tratto. Sono due asini che in realtà prendono forma dalla mia gomma da cancellare, perché io come forma principale ho usato la mia gomma da cancellare, mi sono accorto che l'asino padre aveva un muso di una gomma da cancellare nuova, poi man mano che cancellavo si arrotondava, si addolciva e diventava il figlio. Quindi in realtà questo parallelepipedo che è il muso è anche perché è un modo per legare alla mia idea, proprio il disegno. Sono fatti, come diceva Silvia, per essere idealmente la prima lettura fumetti del nostro lettore ideale, appunto. E quindi propongono anche una serie di soluzioni proprio grammaticali diverse che può avere il fumetto, perché possa essere una panoramica sulle potenzialità del linguaggio del fumetto, già per i piccoli, perché credo che abbiano un grado di complessità molto elevato la costruzione, ma una fruizione molto semplice. E quindi per noi è importante mantenere questo connubio, cioè avere una ricca e complessa architettura che però sia fruibile in maniera adatta all'età a cui ci rivolgiamo, quindi a un prelettore, un lettore che magari non sa ancora cosa c'è scritto nei balloon, ma non è importante, perché la vicenda si sviluppa in maniera molto chiara e poi nel momento in cui comincerà a decifrare le parole sarà un arricchimento e una conquista. Poi insomma, io l'ho vissuta così, l'abbiamo vissuta un po' tutti così, noi lettori di fumetti dall'inizio. Negli ultimi anni c'è stata un po' la crisi del fumetto tradizionale, supereroi, le storie, eccetera. Come l'avete ripensato e reinventato il fumetto, e se pensate che possa ancora essere un linguaggio fondamentale per i piccoli e le piccole? Lo è assolutamente, è un linguaggio che è nuovissimo per come noi poco lo abbiamo frequentato e poco capito, perché lo abbiamo relegato da lettori, da amanti del fumetto, a una nicchia e anche a un certo tipo di storie molto codificate, molto conosciute. E la crisi è stata che quando i lettori di quei fumetti lì si sono invecchiati non c'era un ricambio, e noi teniamo molto invece a questo. Il fumetto per piccoli, per bambini e bambine, deve essere proprio il fumetto che fa nascere nuove generazioni di lettori e fa capire loro la ricchezza di questo linguaggio, che non è un genere, è proprio un linguaggio con cui si può raccontare qualsiasi tipo di storie, anche quelle per i piccoli. Sì, no, soprattutto è un tipo di lettura molto coinvolgente per i bambini, perché c'è il discorso diretto, i personaggi recitano, si trovano a dover comunque interpretare, no, tutti i pezzettini mancanti della narrazione che fanno precedere la storia, quindi è molto, molto coinvolgente. Poi, cioè, a noi piacciono le storie che raccontano la realtà, anche se in questa realtà ci sono due asini che camminano e vanno in bicicletta, vanno a scuola, però di fondo c'è la realtà quotidiana dei bambini e tutte le loro scoperte, che sono per noi molto più interessanti addirittura dei supereroi, cioè hanno un grado di divertimento e di meraviglia molto, molto alto. In ogni libro poi abbiamo nascosto dei contenuti in più proprio per coinvolgere i bambini nel gioco del fumetto. Quindi nel primo volume c'è una piccola lezione di fumetto di Gaetano e Zolletta, dei personaggi da ritagliare, dei balloon da completare. Nel secondo volume ancora delle marionette, personaggi da vestire. Insomma, noi sappiamo che i lettori di fumetto molto spesso diventano anche raccontatori, cioè vogliono raccontare poi le loro storie. Allora noi proviamo a dargli questi piccoli strumenti e un avvio. Interessante, proprio legata all'idea del fumetto, l'idea di espandere i contenuti non nella direzione in cui si pensa, ovvero il multimediale, ma proprio alla carta, e soprattutto a una carta che tu puoi animare, perché noi abbiamo messo anche delle marionette da costruire, con cui poi drammatizzare, fare proseguire la storia. Ecco. Caricare legna sul mulo, per bestemmiare l'asino e la paglia, per scappare zoccoli e cavallo, il mulo bestemmiato ha il pelo più lucido, gli rinfresca la schiena, il mulo malavaso raddrizza la casa, legna sulla barda, scorza di mulo, avanza nella notte nera di carbone, ladri di bosco sulla costa monte, cucciono la terra col lago dello zoccolo, due fili intrecciati tengono più di uno, due vite messe assieme reggono alla frana, per quanto scure la notte alla paglia deve tornare il mulo. A quello più stracciato. mar di catene. Dormi nel letto, svuotalo nel seno. Il toro d'acqua non dice quando ti annega con la piena. L'acqua più stretta è quella più profonda. Ringraziamo allora Simona Sagona di Neucali per questo contributo alla nostra trasmissione. Abbiamo sentito dunque Silvia Vecchini, l'autrice di Gaetano Zolletta, e poi anche Sualzo, l'illustratore, sul perché dei fumetti, sulla loro fascinazione a ogni età, vorrei dire. Con questo noi ci congediamo, ricordandovi solamente, per chi volesse riascoltare la trasmissione, l'indirizzo è ilpioniere.org o radiostafugico.it. Ciao a tutti.